9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Vengo anch'io, cari ascoltatori, in questa mattinata del 26 dicembre. Siete finalmente sazi delle abbuffate che avete fatto la vigilia di Natale, poi tutto ieri Natale, eccetera, eccetera. E dire che io ho tentato di rendervi più buoni con due belle trasmissioni, una la vigilia dedicata a come ci si può dar da fare per gli umani che stanno peggio, e un'altra ieri anche al tema di come sensibilizzarsi sugli animali. E quindi oggi, pensando che vi siete stufati di avere parenti tra i piedi, che vi siete messi a tavola, vi siete distrutti fingendo di essere buoni che non sapete di esserlo, perché in realtà voi fingete queste cose con le famiglie, diciamolo, sono più pesanti di quello che come pesantezza sono le pietanze che avete messo in tavola. Ho pensato che oggi, per liberarsi di questi invitati obbligati ai vostri tavoli, sapete che parliamo oggi? Oggi parliamo di armi. E sapete come ne parliamo, però? Non perché naturalmente voglia indurvi a delle stragi nei confronti dei vostri parenti, ma parliamo di un settore, in questo 26 di dicembre, ancora giorno festivo, del quale voi non sentite parlare mai durante il corso dell'anno. Perché? Perché c'è una convenzione ad extuldendum, perché le armi non ci piacciono, perché le armi fanno male, tutto quello che volete voi. Ma noi siamo anche un paese che ha una tradizione strepitosa nel produrre queste cose che in sé per sé non hanno alcuna cattiveria insita. Perché ricordatevelo, la cattiveria è solo la vostra, perché è la mano sbagliata che rende un'arma qualcosa di diverso per cui è stata costruita. E siccome noi le sappiamo costruire da secoli meravigliosamente, non parlarne, metterle nell'angolo, fare finta che non le produciamo, tentare di non vedere che quella è una roba che dovremo difendere, espandere, promuovere nel mondo con un pochino più di attenzione, quella è anche in questo caso impresa, lavoro, reddito, patrimonio. È la mano cattiva dell'uomo cattivo che rende un'arma pericolosa. Altrimenti, le armi di cui parliamo oggi, diciamo che certo sparano, però pensate a chi usa le armi, per esempio, per fare discipline di tiro. E noi prendiamo tante medaglie da sempre alle Olimpiadi. Secondo voi perché le prendiamo? Perché con che cosa queste discipline vengono esercitate sportivamente? Con le armi, appunto, che vengono prodotte per questo, e noi siamo dei maestri nel farlo. Poi siamo un paese che ha una discutibile, discussa, ma pure una certa tradizione venatoria. Io lì non do giudizi, ma naturalmente anche in quel caso, ovviamente, noi siamo da secoli esperti di produzione. E allora consentitemi iniziare questo 26 dicembre per farvi sorridere, prima di arrivare alle cose serie di questo segmento della produzione di cui voi ignorate tutto, perché non se ne parla mai, perché è tabù. Decidiamo di rompere questo tabù il 26 per capire e insegnarvi che comunque le armi sono una cosa da guardare con attenzione, ma non da rendere tabù, ricordando che noi l'emendamento che c'è nella Costituzione americana non ce l'abbiamo. Noi non siamo un paese in cui si fanno stragi nei licei e nelle scuole, non incorriamo in questo genere di rischi, non abbiamo milioni e milioni di armi portatili che si comprano liberamente come in molti stati degli Stati Uniti, per via di quell'emendamento che nasce dal fatto che è un paese nato dal basso e che difende il diritto costituzionale di avere le armi contro i governi in alto. Non dimenticatevelo, che quella è la vera ragione storica. Ma per farvi sorridere un po' di fronte a questo imprevisto, che oggi parliamo di munizioni sportive e civili e dell'importanza nell'economia italiana di questo settore, un file per farvi sorridere del cacciatore tipo italiano. Apertura della caccia. Quest'anno, travolto dall'implacabile Finini, sempre assatanato da nuove tragiche iniziative, anche Fantozzi ha deciso di parteciparvi. Abbigliamento di Finini. Berrettone Sherlock Holmes con penna alla Robin Hood, poncio argentino di una sua zia ricca, scarpe da tennis con sopra galoche, carte topografiche e trombone da brigante calabrese. Fantozzi. Berretto bianco alla marinara di sua figlia Mariangela, giacca penosamente normale stretta in vita da gigantesca cartucciera da mitragliatrice, residuato della Seconda Guerra Mondiale, fionda elastica, siero antivipera a tracolla, gabbietta con canarino da richiamo e gatto randagio da riporto, subito fuggito durante le operazioni di partenza. Ah, ma che meraviglia! Ma qui è proprio un paradiso terrestre! Respiri, respiri! Stia fermo con quelle manacce! Ma scusi, il fucile è mio, non ha la sua fionda lei! Non ha la sua fionda! Sì, ma intanto lei è l'unico che non è riuscito! Noi non siamo riusciti a sparare un solo gli unici un colpo! Che è successo? Che è successo? Ah, buongiorno signore, noi non siamo riusciti, lui non è riuscito, insomma noi non abbiamo ancora sparato. Me lo faccia vedere. Se ne intende lei? Un pochino. Guardi ingegnere che cos'è. Ma per forza, è completamente scarico. Ma, scusi, ragioniere, ma lei per caso inavvertitamente non ha sfiorato il grilletto? Non me lo ricordo. Scusi, le dispiace ecco. Se appoggio questo e prendo il suo. Allora, arrivederci e buona giornata, buona caccia. Ci vediamo? Ecco, naturalmente lo avete riconosciuto, Paolo Villaggio, che stava facendo un'improbabile descrizione di che cosa non, ripeto, non bisogna fare con le armi e andando a caccia. Non, perché ripeto, è la cautela che deriva dalla conoscenza nel maneggiare, nel detenere, nel tenere in sicurezza, nel pulire, nel rimuovere dalla possibilità dell'accesso di fronte a chiunque non sia autorizzato, a minori, eccetera, eccetera, che sta la sicurezza di un'arma. Un'arma da sola casini non ne fa, i casini li fanno gli umani. Ma andiamo nel merito di questa faccenda, di questa puntata un po' strana del 26 dicembre, perché abbiamo con noi oggi, tra gli altri ospiti, il presidente dell'ANPAM. Che cos'è l'ANPAM? È l'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili. Ripeto, sportive e civili. Capito? Ecco, cioè noi non stiamo parlando oggi di esportazioni di mitragliatrice, del mini antiuomo, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di armi, munizioni sportive e civile. Presidente Perotti, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Giannino, e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, lei innanzitutto è straordinariamente giovane, uno non si aspetterebbe di avere uno con la sua, cioè insomma, scandalosamente, per l'età, per la gerontocrazia italiana dei presidenti di associazioni d'impresa, lei è un po' panta. Non le dico la sorpresa che c'è stata in Confindustria quando mi sono presentato, pensavano fossi il figlio del presidente, quindi è un evento abbastanza particolare. Il nostro settore ha sempre investito sui giovani e quindi eccomi qua. Allora, lei innanzitutto che cos'è? È titolare di un'azienda di famiglia? No. No, io non sono un imprenditore, sono un avvocato, sono l'avvocato consulente di una delle principali aziende presenti sul nostro territorio. Allora, hanno scelto lei un po' col criterio di dire, siccome è già complicato il mestiere di rappresentarci, mettiamo uno, diciamo così, che voglia metterci la faccia. Però noi abbiamo bisogno adesso, Presidente, di illustrare a chi è a casa e non ha la minima idea, perché non lo legge mai, non lo sente mai in televisione, non lo sente mai per radio, di ricapitolare un pochino qual è l'importanza di questo settore per il lavoro, per la produzione italiana. Ma vede, lei dottor Giannino ha veramente detto già tutto. No, i numeri non ne abbiamo ancora parlato, i numeri in questa trasmissione sono fondamentali. Devo dire che anche noi avevamo una percezione non chiarissima della situazione fino all'anno scorso, nel senso che per anni il nostro settore, un po' costretto anche da una cattiva pubblicità che ha sempre avuto, ha sempre cercato di rimanere un po' sotto traccia nell'immagine. L'anno scorso abbiamo deciso di fare un passo in avanti e cominciare a uscire anche pubblicamente e a manifestare quello che è il nostro settore. In modo particolare abbiamo fatto una ricerca con l'Università di Urbino per vedere a che punto siamo. E i risultati, devo dire, sono stati particolarmente favorevoli per noi. E a questo proposito abbiamo con noi, guarda il caso, il professor Fabio Musso, che insegna appunto economia e gestione delle imprese internazionali all'Università di Urbino. Buongiorno professore. Buongiorno dottor Giannino. Buon posta Natale anche a lei, la stiamo obbligando a uno sforzo straordinario e a parlare di questo tema un po' singolare nel giorno dopo Natale, però è il giorno giusto secondo me, perché la gente è un po' più rilassata ed è anche più disposta a sentire cose che abitualmente direbbero, ma non è questo il problema dell'Italia. Certo, il problema dell'Italia non sarà solo questo, ma tutti i settori della produzione sono un problema se uno poi non si rende conto. Allora ricapitoliamo un secondo ciò che nella ricerca, di cui poi è stato anche coordinatore, risalta dell'importanza di questo settore. Di che cosa stiamo parlando se guardiamo al lavoro, produzione e occupati? Ecco, premetto che noi abbiamo analizzato il settore tenendo conto non solo dell'aspetto industriale produttivo, ma anche di tutte le attività economiche che vengono alimentate dall'uso sportivo e civile delle armi, quindi attività venatoria, attività di tiro a volo, attività sportive di vario genere. E questo ci ha portato, sintetizzo subito il risultato finale, a misurare un valore economico in termini di fatturato realizzato equivalente a 0,5% del PIL italiano e in termini occupazionali arriviamo a quasi 95.000 addetti. Poi dettagliando possiamo anche individuare le cifre più precise relative alla stretta produzione industriale, però noi abbiamo voluto proprio capire quali sono le implicazioni che derivano proprio dalla presenza del settore armiero. In particolare noi abbiamo misurato addetti e fatturato sia dei produttori di armi e munizioni, sia dei produttori di componenti, quindi tutte le filiere a monte, sia ovviamente quelli coinvolti nei processi distributivi e quindi rivendite, grossisti, importatori. Allo stesso tempo abbiamo cercato di misurare le spese sostenute da chi pratica attività venatoria e di tiro sportivo, proprio perché quelle sono attività che si svolgono necessariamente con la presenza dell'arma, quindi l'arma è un componente essenziale. Senza l'arma queste attività non esisterebbero. E quindi abbiamo, con un lavoro molto certosino e abbastanza faticoso, ricostruito tutte le spese imputabili a quel tipo di attività, quindi pensando all'abbigliamento, alle spese per i veterinari, per i cani da caccia, al mangime per i cani da caccia, tutta una serie di voci che abbiamo messo insieme, naturalmente estraendo dai dati settoriali la parte di pertinenza dell'attività e quindi mettendo insieme tutto l'impatto economico e occupazionale, arrivando a calcolare anche il cosiddetto effetto indotto, cioè tutti i consumi che chi lavora nel settore armiero e nei settori collegati alimenta nel momento in cui sostiene spese per cibo, alimenti, viaggi, abbigliamento, qualunque cosa, quindi c'è una sorta di effetto a cascata che si riversa su altri settori dell'economia di un paese. Abbiamo misurato anche quello attraverso le tavole delle interdipendenze settoriali, cioè le tavole input-output, che sono degli strumenti di analisi econometrica che permettono proprio di capire qual è il peso di un settore economico nell'economia di un paese. Quindi tentiamo di ricapitolare aggiungendo qualche numero, perché nella sintesi lei ha dato il primo quadro insieme. Noi abbiamo più o meno un 230 produttori, sommando quelli che fanno armi, munizioni e componenti di munizioni. Esatto. Ci abbiamo più o meno una 180 di altre imprese che sono fornitori specializzati di che cosa? Di componenti. Di componenti. Esatto. Poi ci abbiamo 500 altre imprese che cosa sono? Sono fornitori di altri materiali e servizi che però concorrono tutti, sia pure non solo al settore armiero, ma concorrono anche a dare gli input alla filiera. Poi ci sono circa 1400 imprese di complessive in tutti i settori ausiliari. Se sommiamo, facciamo la somma dei volumi della produzione di questi tipi di imprese, ci aggiungiamo poi il valore dei settori collegati al valore del settore, che più o meno sono 800 milioni, ci mettiamo poi il valore di tutti i settori collegati, cioè la spesa per i cacciatori, la spesa dei tiratori, e così via, e andiamo avanti sommando tutte le diverse somme, abbiamo un totale del valore di tutte le attività che ruotano intorno al campo di cui stiamo parlando oggi, che è di circa 8 miliardi di euro, cioè appunto mezzo punto di PIL, e abbiamo occupazione che sta intorno alle 95.000 persone. Quindi questo per dare l'idea a casa che non stiamo parlando proprio di una piccola cosa, stiamo parlando di un settore nel quale c'è una tradizione plurisecolare. Io ricordo a chi è a casa che gli armieri del Bresciano hanno fatto la storia delle armi da fuoco fin dal 500, per capirci, e affondavano le proprie radici in lavorazioni metallurgiche premedievali, cioè stiamo parlando di tradizioni che hanno a che vedere con le popolazioni prelatine nell'Italia, per capirci, e che da questo punto di vista non solo hanno fatto la storia, ma hanno continuato poi a essere in posizione di straordinaria eccellenza grazie a molte imprese che hanno saputo continuare a fare valore aggiunto in un settore che è molto delicato, perché ovviamente non è che si può campare solo con la domanda interna, è vero o no? Questo è un settore nel quale la domanda internazionale per forza diventa poi l'ambito nel quale confrontarsi. Esattamente, e su questo potrei aggiungere un dato molto interessante che è emerso dal nostro studio. Allora, questo settore ha una forte propensione all'export, sia per quel che riguarda i prodotti finiti, cioè armi soprattutto e munizioni, sia per quel che riguarda la componentistica e addirittura anche i macchinari, e questo vuol dire che c'è un'avanguardia anche tecnologica da parte del sistema produttivo italiano che viene apprezzata a livello mondiale. Consideri che la maggior parte delle esportazioni va verso gli Stati Uniti, dove c'è comunque un tessuto produttivo molto forte e competitivo. E questa è una capacità che dimostra veramente il valore del nostro Made in Italy all'interno di questo settore, fatto di innovazione tecnologica ma allo stesso tempo di tradizione, di esperienze manifatturiere che si tramandano di padre in figlio, quindi c'è una combinazione veramente efficace, tant'è vero che se noi andiamo a misurare il saldo import-export in percentuale sul fatturato del settore, emerge per il settore almiero un'incidenza dell'81,5%, che veramente ha pochi corrispondenti in altri settori dell'economia italiana. Pensiamo che l'intero settore manifatturiero ha un saldo del 6,3% in percentuale sul fatturato. Alcuni settori tipici del Made in Italy, i più competitivi a livello internazionale, arrivano attorno al 20%, la meccanica strumentale, cioè le apparecchiature, che sono uno dei gioielli del Made in Italy, arrivano al 4%. E qui siamo all'80%. Questo significa che questo settore contribuisce moltissimo alla ricchezza del paese, perché poi la ricchezza del paese deriva naturalmente anche dal bilancio import-export che si riesce a manifestare. Mi lasci dire a questo proposito, per rinfrescare ai nostri ascoltatori questo terribile 2012 che va a fine anno con una perdita che sarà da 2,24 di PIL, la crisi è tutta sui tre quarti del PIL che sono mercato domestico, perché il contributo in valore dell'export al PIL potenziale è del 2,5%, malgrado questo 2,5% fatto da meno di un quarto del PIL, il cui valore sull'export è superiore a quando avevamo quasi 30 punti di produzione industriale in più. Quindi pensate quanto continuano a essere brave queste 200.000 imprese italiane che esportano. Questa è la forza dell'Italia. Eppure, malgrado il contributo di oltre 2 punti di crescita che ci viene dal valore dell'export italiano, noi perdiamo 2 punti quasi e mezzo per via del mercato domestico. A maggior ragione, quindi, ogni settore che contribuisce con un segno positivo alla bilancia commerciale e all'output potenziale dovrebbe essere considerato uno dei settori da tenere più buoni e cari, perché per ridare il segno più a tutta la crescita italiana è lì che bisogna concentrare le attenzioni. Allora, io nel ringraziare il professor Musso inizio a chiedere al presidente dell'ANPAM Perrotti, ma i problemi con i quali le imprese associate all'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili nel nostro paese si devono confrontare, quali sono rispetto a quelli dei paesi concorrenti, visto che riescono a esportare così tanto e così bene? Perché non ci sono problemi in Italia, evidentemente. Diciamo che io comincio ad avere i capelli grigi per continuare a affrontare problemi soprattutto di tipo burocratico in Italia. Quali sono i problemi? I problemi sono sostanzialmente una legislazione affastellata. Si parte dal TULPS del 31 e si segue una... TULPS sta per Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, diciamolo, esatto, per chi ci ascolta. Esatto, e si va fino sostanzialmente a ieri con le ultime novità legislative. Queste norme sono progressivamente sempre più restrittive, sempre più pesanti a livello burocratico. Solo nell'ultimo periodo si è riusciti, complice anche la crisi, per cui la necessità di cercare di sostenere i settori che esportano di più, come questo, si è cercato di trovare qualche semplificazione. Complessivamente però il peso burocratico sulle aziende è veramente molto molto significativo, non ha eguali nemmeno in Europa. A questo si aggiunge un complesso del sistema paese indifferente alle nostre aziende. Noi abbiamo grossissimi problemi con il settore bancario, perché per una serie di ragioni, tra i quali la necessità di manifestare la propria eticità, molte banche rifiutano qualunque tipo di rapporto bancario con le società armiere, dalle più grandi alle più piccole, anche quelle che manifestamente non fanno produzioni che possono essere in qualche modo pericolose. Penso per esempio a quelle che fanno le repliche delle armi del Far West, che sono amatissime nel mondo, sono amatissime negli Stati Uniti, ma qui vengono considerate al pari di quelle che fanno i fucili mitragliatori. Quindi abbiamo un problema di comunicazione, abbiamo un problema di rispetto del settore. Qui non si sta parlando, perché a molti, io vi vedo a casa che state dicendo, ma che cacchio state dicendo? Ci vogliono norme prescrittive molto pesanti rispetto alle armi. Stiamo parlando, per esempio, che la disciplina del trasporto e delle consegne nel nostro paese, se voi fate una segmentazione di trasporto internazionale, in altri paesi che non sono quelli del terzo mondo, dove ovviamente le armi non sono disciplinate come da noi, ma da paese europeo a paese europeo, la mole di prescrizioni, di obblighi nel tratto italiano è incomparabile superiore a quello di qualunque altro paese europeo, vero? È verissimo, ma le dirò una cosa. Questo è un paese strano, è un paese dalle 100 questure. noi sappiamo che le questure su questi temi hanno dei poteri prescrittivi. Certo. La principale, che la questura di Brescia, è più abituata, diciamo, a frequentare il discorso delle armi, quindi è molto sensibile anche a venire incontro alle esigenze delle aziende armiere. Le altre questure, ognuna fa a modo è una suo. Repubblica. Avete capito? Ogni questura disciplina la faccenda in modo diverso. Quindi può diventare una repubblica delle 100 questure. Se poi parliamo a livello europeo, noi abbiamo un grande competitore che è l'Austria, che è un paese molto particolare per una serie di questioni, in modo particolare sulle armi, hanno un sostegno molto forte del loro paese, per il quale tutte le volte che le aziende dell'Austria intendono esportare nei paesi che l'Europa ritiene non adeguati a ricevere certe armi, loro vengono autorizzati comunque a farlo. E questo chiaramente è una violazione del diritto comunitario. Non si è mai riusciti a convincere il nostro paese a intervenire a livello comunitario per sostenere la posizione italiana, cioè che certi paesi sono a rischio e devono essere a rischio per tutti. Devono essere una blacklist comune per tutti, invece in Europa c'è chi li aggira. Noi ci atteniamo naturalmente, e quindi, come ovvio, non solo prendiamo mercati, in molti paesi è giusto non vendere armi, eccetera, eccetera. Il problema è che al nostro fianco, oltre confine, c'è chi dice: me ne rido perché io intanto gliele vado a vendere al posto tuo. Bene, adesso andiamo in pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua, tornati. Questa è una puntata, ovviamente lo dico perché ha iniziato a telefonare dicendo: no, la caccia, no, i fucili. Questa è una puntata che va in onda, come mi è stato chiesto dalla emittente, per risparmiare soldi, per far sparire a tutti le vacanze festivali, registrata. Quindi ve lo dico perché sono onesto con il mio pubblico e con il pubblico della radio, non il mio personale, ovviamente. Stiamo parlando in questo 26 dicembre, in cui siete tutti lì pronti ancora a digerire quello che avete sullo stomaco, di armi. Abbiamo deciso apposta di farlo dopo due giorni dedicati a come fare del bene. È una puntata un po' particolare perché noi pensiamo di fare del bene per occuparci di un settore della produzione trascurato, ignobilmente trascurato. Stiamo parlando delle armi non da guerra, della produzione di armi e munizione per le discipline sportive e per le discipline venatorie. Qualunque cosa voi pensiate della caccia, comunque è consentita dalla legge, di una grande tradizione armiera italiana di cui nessuno parla, nessuno si occupa, tutti ci vergogniamo. Abbiamo scoperto che ogni questura disciplina in maniera diversa addirittura ciò che attiene a come si trasportano, si tengono in sicurezza le armi, eccetera eccetera, e che naturalmente i nostri concorrenti europei se ne fottono delle blacklist comunitarie su dove si esporta o no, e naturalmente ci fanno pipì sui piedi. Tanto per essere chiari, abbiamo con noi qua in studio il presidente Nicola Perotti, con cui avevamo iniziato appunto l'esame dei gravami italiani su questo. Però è un po' singolare che questo paese, che ha una grande tradizione, aveva una grande tradizione venatoria, poi a un certo punto su questo è calato un tabù. Che cos'è? Acquisizione di una consapevolezza degli italiani oppure semplicemente ipocrisia? Ma la mia risposta è inevitabilmente la seconda, chiaramente. Ritengo che per troppo tempo l'ala venatoria di questo paese sia stata silente. Noi abbiamo accettato che una certa posizione, legittima se vogliamo, io non sono necessariamente contro coloro che non amano la caccia, ma abbiamo lasciato spazio solo alle loro ragioni, non si è mai dato spazio alle ragioni opposte. Questo non credo sia giusto. Un po' c'è di ignoranza in giro, perché io, che mi capita per lavoro di girare spesso il mondo, ho scoperto delle realtà incredibili, quali per esempio il WWF del Sudafrica, per esempio, che è a favore della caccia. Io non mi sarei mai aspettato di trovarmi seduto allo stesso tavolo con il presidente del WWF, assolutamente in posizioni forse anche più avanzate delle mie. Naturalmente ogni paese, diciamo così, ha una fauna diversamente ricca, come si direbbe, rispetto ai diversamente abili. Noi abbiamo una condizione un po' diversa. Io qui devo tenere conto che tra i nostri ascoltatori moltissimi non la penseranno come lei. Faccio presente a tutti che noi abbiamo una disciplina dei calendari venatori comunque distinta per regioni, specificamente volta alla tutela delle specie di cui aprire o chiudere in periodi dell'anno, con numeri di capi per tipo di specie a seconda delle valutazioni che vengono condotte, per tentare appunto di tenere l'equilibrio ambientale e faunistico sempre come priorità. Detto questo, noi stiamo parlando del tabù di non occuparsi poi del fatto che siamo bravi a produrre, anche se nessuno ve lo dice, armi per questo tipo di specifiche. Ci ha raggiunto il professor Ugo Ruffolo, che insegna diritto civile all'Università di Bologna. Molti di voi lo ricorderanno perché per anni e anni è stato una star nel programma Mi Manda Rai 3. Buongiorno professor Ruffolo. Buongiorno a voi. Allora, uno si aspetta da lei che questo è il classico argomento sul quale dice: ma come, le armi, ma di che parliamo? Invece no. Vede, Le armi sono attrezzi sportivi come le racchette da tennis, come le mazze da golf. In gran parte questi attrezzi sportivi vengono usati per vincere o per competere anche alle Olimpiadi nelle varie discipline. Le Olimpiadi, non ce lo scordiamo, sono nate per la competizione con l'arco e col giavellotto, dai tempi di Omero in poi. Quindi il problema del demonizzare un mezzo che è neutro è qualche volta un tabù ideologico. Molto spesso, secondo me, un tabù ideologico. Prima stavamo parlando di questa disciplina normativa italiana che è una specie di patchwork. Invece di avere poche norme ispirate al massimo del principio, ovviamente, della cautela e della tutela, abbiamo una amplissima discrezionalità sul territorio da parte delle autorità di pubblica sicurezza, perché è il testo unico di pubblica sicurezza quello che fa testo, ovviamente, in campo. Da un punto di vista ordinamentale, come mai, secondo lei, professore, siamo diventati la Repubblica delle 100 questure? Vede, si tratta di discrezionalità che spesso si hanno anche in tutti gli altri settori. Esatto. Cioè, il discorso è, se si tratta non di discrezionalità ma di violare la legge per imporre cautele maggiori che la legge non impone, e allora è un problema di comportamenti scorretti o di provvedimenti amministrativi censurabili. C'è invece un margine, come è giusto che sia, anche se non se ne deve abusare, di discrezionalità come in tutti i provvedimenti amministrativi in relazione a situazioni specifiche di pericolosità. Il discorso è che spesso, voglio dire, c'è una specie di ideologia contro, per cui, diciamo, per partito preso si limita più del dovuto, ma è un conto è abusare dei poteri di discrezionalità, un altro conto è che ci deve essere un margine, non ci può essere un letto di Procuste, cioè non ci può essere una misura unica dettata dalla legge in cui il funzionario applica criteri che la legge impone senza avere un minimo di possibilità di discrezionalità. Senta, professor Ruffolo, ma qual è il suo rapporto, se ce n'è uno, personale, individuale, con le armi da tiro o quelle da caccia? Come per tutti gli altri strumenti sportivi, sono strumenti neutri, non vanno demonizzati, va demonizzato chi li usa male. Ma lei li usa? Lei li usa? Pronto? Lei li usa? Ne fa uso? È un cacciatore, è un tiratore a volo? No. Allora faccio anche queste cose. Oh, ma non c'è niente di male, io glielo sto chiedendo perché io ho un'esperienza diversa in altre epoche della mia vita con armi di altro tipo, quando ho svolto il mio servizio per la patria, e poi sono un appassionato di problemi della difesa. Da giovanissimo ho avuto un lontano parente che mi portava a caccia. Io mi sono appassionato in realtà agli animali e ai cani, questo devo ammetterlo, perché ero troppo piccolo, quindi io non avevo giustamente facoltà di avere accesso ai fucili del lontano zio ed era su questo assolutamente rigoroso, quindi non ho avuto l'iniziazione allora, l'ho avuta poi più avanti, e devo ammettere che dal punto di vista tecnico sono dei congegni talvolta che mi hanno lasciato stupefatto, perché ovviamente poi li ho paragonati con le altre armi di cui, quando si vestiva obbligatoriamente la divisa militare, avevi a che fare, perché dovevi addestrarti almeno un minimo. Le armi militari sono un'altra cosa, totalmente, esatto, sono una cosa, esatto, diversa dalle auto sportive. Esattamente, questo è il punto. Se dovesse indicarci, professor Ruffolo, che cosa secondo lei dal punto di vista ordinamentale aiuterebbe di più preservando cautela e sicurezza rispetto al ginepraio di norme italiane che abbiamo visto non aiutare i produttori, ma nel rispetto di tutte le giuste norme sacrosante di sicurezza, lei che cosa indicherebbe, che cosa bisognerebbe fare? Ecco, ci vorrebbero delle norme che siano più chiare nell'impedire gli abusi di discrezionalità. Eh sì, che è un problema, un grande problema italiano, perché la discrezionalità è da una parte pluralità di regimi contrapposti, quindi mancanza di chiarezza, e anche però l'opacità che poi rende possibile. Qualche volta c'è una politica contro, una politica amministrativa contro, e allora l'utilizzazione delle norme amministrative esistenti tirate, stiracchiate sino a spezzarsi. Infatti quello di cui lei parlava prima non dipende dalla circostanza che la discrezionalità esiste, perché è sacrosanto, certo, che ci sia, ma dal suo abuso. Certamente. Allora, grazie al professor Ruffolo. Torniamo al presidente Perotti. Allora, nella rassegna abbiamo visto molti oneri amministrativi, e in un paese che ne ha tantissimi, ma qui in particolare aggiunta, una concorrenza europea, diciamo così, non fair, non equa da parte di paesi che sono grandi produttori e approfittano di ogni possibilità, ogni finestra per mettere a segno colpi contro la concorrenza italiana. Poi vediamo quali altri fattori sono a svantaggio per i produttori italiani. Noi abbiamo chiaramente una caratteristica che è legata ai costi. Noi produciamo in euro e tendiamo a vendere in dollari, quindi chiaramente la nostra competizione è sempre un pochettino difficile. Ci tengo a sottolineare che le nostre produzioni sono al 100% italiane, cioè nessuna delle nostre aziende ha mai delocalizzato, proprio perché il Made in Italy sostanzialmente è il valore aggiunto che noi abbiamo. Nel mondo a me capita di incontrare anche operatori del nostro settore, anche diversi dai nostri paesi, che stravedono per le nostre produzioni, cosa che non succede assolutamente qua in Italia, dove anzi noi dobbiamo tendenzialmente un po' vergognarci. Dovesse dire nel mondo, dov'è in particolare, per chi non è esperto del settore, moltissimi che ci ascoltano sicuramente non lo sanno, quali sono i paesi che più stravedono? Sicuramente gli Stati Uniti, che è il mercato principale di destinazione dei nostri prodotti, ma anche l'Europa di fondo ha sempre riconosciuto una primazia nelle produzioni italiane. Poi lo citava il professor Ruffolo, noi sono ormai anni che alle Olimpiadi vinciamo tutte le medaglie. È un po' come se nella Formula 1 tutte le squadre e tutti i team gareggiassero con la stessa macchina e il campionato dei costruttori fosse sempre vinto dalla stessa. Noi abbiamo coperto tutte le medaglie da Los Angeles 84 ad oggi, sia nelle armi sia nelle munizioni. Questo credo dica tutto del livello delle nostre armi. Diciamo, il problema di fondo è che noi siamo un po' costretti a correre con un peso attaccato alla gamba. Le aziende del settore negli anni come hanno cambiato l'atteggiamento rispetto al radicarsi evidente di un tabù di occuparsi nella comunicazione pubblica e aziendale dei problemi del settore? Perché si potrebbe dire da una parte che forse c'è anche una responsabilità delle aziende, perché le aziende che non sanno proporsi nella giusta maniera facendo rilevare l'impatto che hanno su produzione export, produzione di reddito del lavoro che generano eccetera eccetera, forse qualche colpa ce l'hanno anche loro però. Ma vede, io sono dell'idea che per qualche anno, troppi anni, il settore si è fatto chiudere in un angolo. Noi abbiamo accettato di essere marginali, un po' perché strutturalmente, geograficamente, noi siamo un po' marginali. La maggior parte delle produzioni arrivano da zone abbastanza periferiche dell'Italia. Parlo in modo particolare della Val Trompia, che è l'area mia di lavoro e di affetti. E abbiamo un po' accettato questa cosa, di rimanere nell'ombra, di restare un po' così sopportati dagli altri. Io penso che sia sbagliato. Noi abbiamo dei numeri interessanti, occupiamo diverse migliaia di persone e diamo dei risultati eccezionali a questo paese. E credo sia giusto essere rispettati per quello che siamo. Cosa vuol dire invece quando andate all'estero e trovate i riscontri che lei dice? Dice, noi andiamo in fiere internazionali magari in cui riusciamo ad avere attenzione, strutture organizzative rivolte alle imprese italiane eccetera, che in Italia ti puoi scordare. Da che cosa dipende questo? Ma credo che sia un approccio più laico al problema. Qui quasi sempre ci si divide un po' su tutto, voglio dire, questa è una valutazione generale sul paese, ma nello specifico ci si divide troppo sul bene e il male. L'arma è buona, l'arma è cattiva. Noi riteniamo che ci voglia invece un atteggiamento più industriale. È un prodotto che funziona, è un prodotto che va, è prodotto in sicurezza, è prodotto con le norme corrette. Nessuno di noi contesta l'applicazione delle norme sulla PS, quindi sulla pubblica sicurezza. Una volta che queste sono rispettate, il prodotto deve essere rispettato e quindi le aziende che lo fanno dovrebbero essere aiutate. Noi purtroppo questo tipo di supporto non lo troviamo mai. Quando dice aiutate, capisca, chiarisca bene cosa vuol dire, sta chiedendo sussidi? No, noi non abbiamo mai chiesto sussidi e fortunatamente le nostre aziende non le hanno mai avuto bisogno. Io credo che ci voglia rispetto come sistema paese, cioè bisognerebbe capire quali sono le necessità amministrative di queste aziende, che cosa queste aziende avrebbero necessità che si faccia. Noi stiamo facendo una battaglia molto molto forte per avere la digitalizzazione delle licenze, che è una cosa banale. Sì. Noi produciamo migliaia e migliaia di licenze di esportazione. Ogni volta tutte le aziende, anche le più piccole, devono andare avanti e indietro dalle questure, chiedere il permesso e averne le firme. La digitalizzazione della pubblica amministrazione è una grande incompiuta che aumenterebbe la produttività di circa metà del PIL italiano, perché è quello che poi l'intermediazione pubblica è quello, e quindi figuriamoci. E le dirò di più. Per quanto riguarda l'agenzia di dogane, l'unica dogana autorizzata a sdoganare le armi è quella di Brescia. Quindi lei si può ben immaginare munizioni e armi che vanno avanti e indietro lungo la penisola per andare a fare lo sdoganamento a Brescia. Perché una? Perché tradizionalmente è sempre stata la dogana d'uscita. Tradizionalmente, però, c'era il re, c'era l'imperatore, c'era il papa re, poi abbiamo cambiato qualcosa. Ecco. Io sono perfettamente d'accordo con lei che bisognerebbe entrare nel nuovo millennio. Purtroppo ci sono delle resistenze. Ci sono delle resistenze, noi stiamo lavorando anche con funzionari, perché ci sono i funzionari nella pubblica amministrazione che sono pronti a cambiare. Forse la politica vi ha tradito. Diciamo la verità, perché la politica in altri tempi ha corteggiato moltissimo i cacciatori, negli anni 50, 60, sta. Poi è volta, l'aria è un po' cambiata, il vento ha cambiato, la politica ha utilizzato e cavalcato l'esatto opposto come stanza, e forse questo ha contato un po'. Sì, diciamo che forse il settore venatorio, soprattutto, non tanto le industrie o il settore armiero, ma diciamo soprattutto l'ambito venatorio, si è fatto un po' prendere da queste sirene, promesse mirabolanti che poi non hanno mai avuto seguito. Personalmente sono per un approccio più razionale, cioè bisognerebbe affrontare i problemi per quelli che sono, non inseguendo. Qui non si stanno chiedendo tutele particolari, semplicemente di uscire da un regime di aggravi particolari rispetto a un settore che ha il suo rilievo. Adesso abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale in questo giorno post natalizio. 9 in punto, la versione di Oscar. This is the end. Allora, this is the end, non perché un'arma sia la fine, capite? No, un'arma da tiro e un'arma da caccia, la caccia può essere la fine di qualcosa, questo, che è vivo per me e che mi è molto caro, questo non c'è dubbio. Ma però stiamo oggi parlando dei problemi di questo settore, avete scoperto che ci sono un po' di particolarità che forse ignoravate, pensate alla Repubblica delle 100 questure, poi ce n'è una sola che fa di dogana invece per tutti a livello nazionale, quella di Brescia, e non è finita, perché nei gravami particolari che gravano su questo mezzo punto di PIL che fa l'80% di esportazione, quindi una roba record di cui nessuno parla per non scandalizzarvi, perché così vi volgete dall'altra parte, ma ce ne sono altre di particolarità. Uno è questo, il Banco Nazionale di Prova. Vogliamo parlare di che cos'è questa roba, Presidente? Questa è una storia che le regalerei, perché sono sicuro che su questa lei potrebbe costruirci qualcosa di davvero divertente. Il Banco Nazionale di Prova è un ente costituito nel 1910 ed è come scopo, tra gli altri, quello di bancare tutte le armi prodotte in Italia, tutte quelle che importate dal resto degli altri paesi non abbiano avuto bancature da altri banchi come quello italiano. Allora, bancatura non bancatura. È detto che chi è a casa sappia cosa voglio dire, un banco di prova. La bancatura in buona sostanza è una verifica, esatto, che si fa su tutte le armi della sua resistenza a un eccesso di pressione che si crea all'interno della canna durante uno scoppio di una munizione, per verificare che non scoppi esattamente la canna, appunto, piuttosto che l'arma. Questa è una prova che si fa su tutte le armi prodotte e serve sostanzialmente per verificare che quell'arma sia sicura per l'utente. Si chiama banco di prova proprio perché viene assicurata l'arma ad un banco e sottoposta a delle verifiche dinamiche, chimiche, eccetera, eccetera, rispetto alla tenuta dei suoi congegni, camera di sparo e così via. Esatto, ella sa che qualche annetto fa, in un momento di grande entusiasmo sulla riduzione dei costi di questo paese, si cercava di tagliare in modo così un po' alla cecca. Tra i vari enti che si era deciso a un certo punto di eliminare, è stato inserito inopinatamente il Banco Nazionale di Prova. Questo perché? Perché si era fatto un grande sacco nel quale si erano messi tutti gli enti. Gli enti inutili, i famosi enti inutili, dicendo agli enti inutili di dimostrare di non essere inutili facendo delle riforme, trasformandosi. Nel caso specifico, la cosa ancora più paradossale era che il Banco Nazionale di Prova non solo non era inutile, ma anzi vi era un obbligo di norma che obbligava tutte le aziende produttrici ad passare dal banco, e quindi evidentemente una volta tolto il banco non si sapeva come mettere sul mercato queste armi. Ma addirittura il banco non era nemmeno inutile, ma era inutile, perché addirittura produceva soldi per lo Stato, perché tutte le aziende quando vanno a bancare pagano per questo servizio. E il banco produceva milioni di euro per lo Stato. Quindi era una cosa paradossale. In quel momento siamo tutte le associazioni, la nostra, le associazioni degli artigiani, le associazioni delle armerie, siamo andati pregando in Parlamento per trovare un ascolto attento a questa situazione. Ma non c'è stato assolutamente niente da fare. Il banco è stato soppresso, e per evitare a questo punto un buco nella legge che avrebbe reso impossibile continuare la produzione di armi in Italia, abbiamo dovuto passare questo banco dal livello nazionale a un livello locale, trasformandolo in un banco provinciale di Prov, cosa che creava enormi problemi a livello internazionale, perché senza un banco nazionale diventava impossibile essere riconosciuti all'estero. Insomma, il solito garbuglio all'italiana che diventava addirittura paradossale. Fortunatamente, quasi sei mesi dopo, siamo riusciti, con l'intervento, anche in questo caso attento del ministro dell'interno, a rimettere in piedi la baracca. Ma questo dimostra che ogni volta si opera senza conoscere i settori, senza avere attenzione, senza neanche informarsi. Questo crea enormi problemi di tutti i generi. Qui c'è una particolarità. Nella mia esperienza, per così dire, di cooperazione internazionale, dell'ascolto che viene dalla politica e dalla pubblica amministrazione ad alcuni particolari delicati settori della produzione, quello armiero è esattamente uno di questi settori. Diciamo che ci sono paesi, grandi paesi occidentali, hanno un tradizionale e consolidato canale di confronto e di ascolto con i produttori. Non sto parlando solo dei grandi gruppi delle tecnologie più avanzate della difesa e sicurezza, cioè non sto solo parlando degli Stati Uniti, come ovvio, di tutto il canale del procurement militare, quindi del rapporto che è strettissimo, cioè le lobby di Northrop, di McDonnell Douglas, di Lockheed eccetera, sono parte fondamentale del lobbying al Congresso. Sto parlando anche nei paesi europei, l'Austria per esempio. Quando voi in Austria dite Glock, per capirci, che è la produttrice di armi da fuoco, da fianco e anche da guerra, notissima per il livello avanzato della sua ricerca sui materiali e così via, lì c'è un rapporto con la politica strettissimo, diretto, storico. Da noi invece la politica, da una parte commendevolmente, cioè evitare rapporti impropri, sono d'accordo, certo fare cacchiata di questo genere è un altro paio di maniche. Sì, diciamo che oltretutto non si è mai riusciti a capire esattamente chi l'avesse mai messo sto Banco Nazionale di Prove all'interno degli enti inutili, perché nessuno ovviamente aveva tirato sulla mano per chiarire le ragioni, e poi nessuno ovviamente voleva metterci la mano nel sacco per tirarlo fuori, perché pare sempre brutto essere additato per quello che aiuta il settore armiero. Senta, la crisi sul mercato interno, domestico, quanto ha inciso in questo 2012 su tutto il settore? Allora, diciamo che noi abbiamo in realtà sentito la crisi qualche tempo fa. Perché essendo molto orientati agli Stati Uniti, noi rispondiamo molto di più alle fasi economiche o ai cicli economici americani rispetto a quelli europei. Quindi per voi 2008-2009 esatto, sono stati gli anni, esatto, noi abbiamo avuto flessioni più significative in quegli anni, meno in questi dove comunque c'è stato un certo recupero sostanzialmente. Ma si riesce già a vendere volumi importanti, valori importanti, margini importanti in Cina, da quella parte del mondo? Allora, la Cina, che si caratterizza per una serie di altre questioni, è un paese nel quale non è permesso detenere armi. Appunto. E quindi noi non possiamo evidentemente andare a venderli. Inciso, guardate che il diritto a detenere armi, come vedete, tanto c'è un emendamento nella Costituzione americana, perché Thomas Jefferson difendeva il diritto alla rivolta dal basso contro i governi, guarda caso nei governi autoritari comunisti come quello cinese il diritto a detenere armi è considerato dallo Stato qualcosa di profondamente negativo. Voi dite, quanto sono bravi i comunisti cinesi che impediscono l'uso improprio delle armi? No, i governi hanno paura, scusate, inciso. Sì, diciamo che lo stesso problema lo troviamo negli altri paesi, quelli che vengono considerati i BRICS, perché per ragioni interne sostengono molto le loro produzioni, che sono anche produzioni interessanti se vogliamo sotto un certo punto di vista, e ovviamente caricano in modo molto significativo a livello doganale le importazioni in quei paesi. Purtroppo la nostra forza non è mai stata quella di poter convincere il nostro paese ad alzare la mano al WTO piuttosto che in altre assemblee per dire qualcosa su questo. Quindi gli altri mercati, diciamo, di riferimento sono mercati veramente complicati da conquistare. Ci stiamo lavorando su, c'è una bella risposta comunque, perché comunque anche gli utenti di quei paesi servono estremamente interessati ad avere i nostri prodotti, ma ci vuole qualche tempo e ci stiamo lavorando su. Il sistema di proiezione internazionale del settore è un sistema organizzato in filiera, cioè le imprese del settore italiano cooperano o, come sempre o quasi avviene in altre filiere, sono tutti in lotta uno contro l'altro? Ma allora, il nostro settore è caratterizzato in modo particolare. Noi abbiamo una grande azienda principale, che è l'azienda Beretta, che è l'azienda più storica, più di 500 anni di storia. E intorno ad essa c'è un numero molto consistente, le 2000 aziende sostanzialmente, che sono aziende piccole o medio piccole. Mentre le più grandi, quindi esattamente in modo particolare Beretta, hanno delle reti distributive strutturate sostanzialmente su tutti i principali paesi, le altre spesso provano a fare anche sinergia, quindi non necessariamente c'è una guerra aperta anche nel settore armiero tra di loro. spesse volte cercano di lavorare soprattutto nei mercati nuovi, quelli più difficili, quelli dove in questo momento ci si confronta anche con avversari significativi, i tedeschi, gli austriaci, anche gli americani, si lavora anche insieme. Pensiero post natalizio, quindi cerchiamo di riconciliare quelli che ci siamo persi a casa, che dicono ma che cavolo di scelta che avete fatto in questo 26 dicembre. Che cosa invece si potrebbe fare di più ancora, se c'è qualcosa che si può fare per evitare il rischio della percezione che la sicurezza di un'arma sia comunque qualcosa da preservare anche a costo di produrre di meno e peggio? Ma credo che in Italia noi abbiamo fatto tanto su questo, ci sono delle leggi già scritte che aspettano solo di essere applicate. Questo è un vecchio problema italiano, quello di avere le grida che poi non si applicano mai. Non ne abbiamo di leggi. Noi abbiamo sempre chiesto alle istituzioni di anche ragionare insieme a noi per trovare come applicarle. Sul problema delle stragi che purtroppo ogni tanto vediamo soprattutto negli Stati Uniti, noi abbiamo sempre lavorato insieme alla pubblica amministrazione per capire quali sono gli strumenti per poter evitarle. E credo che ci siano già gli strumenti, bisognerebbe applicarli. Allora, grazie al presidente dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive Civile, Nicola Perotti, grazie al professor Fabio Musso, grazie al professor Ugo Ruffolo. Lo so che vi è sembrata una scelta strana, però era semplicemente per dirvi, se pensate di disfarvi di qualche parente dopo Natale con il fucile da caccia, non fatelo! Perché non è stato fatto per quello, e non ce l'abbiate con le imprese che le fanno di ottima fattura, perché quelli bisognerebbe considerarli dei benefattori della bilancia commerciale italiana. A domani!